bufala in tavola di Nicoletta Carbone. Puntata in replica. Che fatica si fa a cambiare vita, come cambiare città. È vero, si fa fatica a cambiare e tutto sta cambiando intorno a noi. Resto io, la vostra salutare ossessione quotidiana. Intanto buona domenica da Nicoletta. Tutto cambia, è vero, tutto cambia attorno a noi, la luce, la temperatura, il paesaggio, i profumi, i colori, e anche noi, più o meno consapevolmente, viviamo questo cambiamento in modo più o meno naturale, con maggiore o minore energia. Ma la primavera è indubbiamente, fra tutte le stagioni, quella che sembra condizionare di più il nostro benessere. C'è chi si sente su, avverte quella piacevole sensazione di rinascita, di energia, di vitalità. C'è chi invece fa i conti con una serie di piccoli fastidi, parlo al plurale perché spesso sono più di uno, tanto che si parla di sindrome primaverile. Sedetevi allora, sedetevi con me, anzi con noi, perché in linea con noi oggi alla tavola della bufala in tavola si siede anche Massimo Gualerzi, cardiologo esperto in riabilitazione cardiometabolica. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Dottor Gualerzi, che effetto le fa la primavera, su o giù? Ma diciamo che come a tutti su per quanto riguarda la voglia, nel senso che tutti noi abbiamo più voglia di fare cose con questa luce, con queste giornate più lunghe. Però dobbiamo fare i conti con, ahimè, una breve fase, diciamo subito breve, di giù, legata appunto a questa stanchezza e sonnolenza che non devono far paura perché sono tipiche del cambio di stagione, e poi vedremo anche perché. Che imbroglio era, maledetta primavera, che resta di un sogno erotico. Sì, per alcuni è davvero così, dottor Gualerzi, maledetta primavera, una stagione difficile, mal di testa, irritabilità, insonnia, stanchezza. Ma dottore, intanto che sono qui a lamentarmi, completo il quadro con dolori muscolari, gonfiore. Ah, mi dimenticavo la ciliegina sulla torta. Torna la gastrite, il termine lo so, non sarà corretto, a voi medici non piace, ma è chiaro a tutti, che è un classico della primavera. Dottor Gualerzi, come a dire che la natura rinasce e noi siamo a pezzi, è come se andassimo contromano. Ma in realtà apparentemente sembra proprio di andare contromano rispetto alla bellezza, alla fioritura e alla forma della natura. In realtà, vede che anche lei mi sta diventando un po' poeta. Eh certo, è la primavera. È la primavera, è il romanticismo. No, in primavera sicuramente la natura si riattiva, ma allo stesso modo anche il nostro organismo si risveglia dall'inverno. E in tutto l'organismo si verifica un aumento delle funzionalità, quindi ritornano a pompare, diciamo così, gli ormoni, abbiamo più voglia di stare all'aperto, e ciò comporta un aumento del consumo di energia che causa questa sensazione di stanchezza, anche perché molto spesso l'inverno invece ci ha regalato una serie, diciamo, di fardelli, chiamiamoli così, come le tossine per l'alimentazione più ricca di grassi associata alla minore attività sportiva, che dobbiamo proprio in questo lasso di tempo, questo breve lasso di tempo di questi primi 15 o 20 giorni, smaltire velocemente se vogliamo rientrare in sintonia nel mood proprio della natura, no? Dobbiamo alleggerirsi un po' di questi fardelli perché dobbiamo, diciamo, riallinearsi con il ritmo circadiano del nostro corpo e quindi della natura. E pensi che addirittura anche tutti i nostri sistemi si devono riallineare, anche ad esempio i batteri intestinali, che oggi sono molto famosi, diciamo, perché sono quelli del microbiota intestinale che regolano tante cose, anche gli ormoni, hanno bisogno di riallenarsi, riallinearsi con i nuovi ritmi della nostra vita, e quindi anche l'appetito, la fame, la sazietà oppure anche la gastrite hanno una correlazione con questo nuovo mood, nuovo, diciamo, ritmo che dobbiamo, diciamo, ritornare in ritmo. Allora, il messaggio è questo, ed è un po' il tema di questa nostra puntata. Se volete rifiorire con la primavera, restate con noi, perché insieme al dottor Gualerzi e a tanti altri esperti vi organizzeremo una ripresa straordinaria per affrontare la primavera e per scrollarvi di dosso i pesi, i fardelli dell'inverno. E dottor Gualerzi, lei ce l'ha raccontato bene, ed è proprio per questa ragione che in primavera impazzano diete che vantano proprietà disintossicanti. Ma anche qui, dottor Gualerzi, ho bisogno di che lei ci aiuti a fare chiarezza, perché con questa parola raccontiamo spesso cose diverse e che nulla hanno a che fare con il nostro benessere. Diciamo che ogni dieta dovrebbe porsi l'obiettivo di ridare salute prima ancora che, diciamo, il peso ideale. Proprio in primavera si sente più la necessità, prima ancora di avere una forma, diciamo, da costume nei mesi successivi, di riallinearsi appunto con la natura. E quando parliamo di riallineamento, parliamo di detossificazione, perché appunto, come dicevamo poc'anzi, il fardello dello stress ossidativo, dell'intossicazione che ci ha regalato appunto l'inverno, dove abbiamo mangiato necessariamente di più cibi più calorici per mantenere anche l'omeostasi, quindi la temperatura corporea in un ambiente più freddo, devono essere appunto smaltite, perché dobbiamo immaginarci in realtà che il nostro, diciamo, la nostra intossicazione, la nostra, diciamo, fardello che abbiamo, sono come delle ceneri che tengono soppresso in un certo senso il fuoco del metabolismo, e proprio dobbiamo togliere queste ceneri dal nostro metabolismo se vogliamo vederlo di nuovo ardere e quindi riavere un metabolismo adatto alla stagione. Ecco, le diete disintossicanti, quelle corrette, posano la loro e mettono il punto, mettono, diciamo, l'accento proprio in questo ambito, quindi avremo dei cibi adatti a fare questo. E devo dire che ancora una volta la natura ci viene incontro, perché basta che ci guardiamo fuori dalla finestra per vedere la frutta e la verdura che normalmente viene prodotta in questo periodo dell'anno per avere, diciamo, degli alimenti detossificanti. D'altra parte aumenta anche il senso di sete, e diremo anche come l'acqua o dei surrogati dell'acqua possono essere un ottimo elemento, quindi cibi più liquidi, meno calorici, e che abbiano un'azione, diciamo, depurativa sia a livello intestinale che a livello, diciamo, delle vie urinarie. Allora, il dottor Gualerzi ha fatto un po' il menù della nostra puntata, e quindi adesso voi vi fermate con noi, ma restate con noi, a tra poco torniamo di nuovo insieme, progetto Detox. La bufala in tavola. È passato l'inverno lasciandomi addosso il ricordo di un saluto. L'inverno è passato, ma noi come l'abbiamo passato? Allora voglio darvi subito una comunicazione di servizio. Sulle nostre pagine abbiamo postato il test della verità che il dottor Gualerzi propone nel suo libro, e che permette, rispondendo a delle semplici domande, di ottenere un punteggio che ci fa capire se effettivamente abbiamo bisogno di un momento detox, che è una specie di cambio degli armadi. Dottor Gualerzi, diciamo così. Sì, è proprio così. Ecco, e soprattutto togliere via quello che lei ha definito le ceneri, e quindi che così soffocano un po' quel fuoco dell'energia che invece noi vogliamo riattivare. Sì. Ed è quello che ci fa stare bene, soprattutto va a spegnere, noi vogliamo spegnere anche tutta quella serie di fatiche e di malesseri che ci portiamo dietro dall'inverno. Quali sono, dottor Gualerzi, i freni che ci portiamo dietro dalla stagione che ci siamo lasciati alle spalle, che possono rendere faticoso questo periodo, causando i problemi di cui abbiamo parlato e che molti di noi accusano? Beh, innanzitutto mi è fatto venire in mente un'immagine del cambio d'armadio, no? Mi viene terribile, dire, una tragedia per appunto me. Arriviamo sempre lunghi, no? Sì. E io ad esempio ieri ho detto che lo devo ancora fare, però ormai le temperature darebbero ragione di averlo già fatto, e questo vale anche un po' per il nostro, diciamo, comportamento, perché se fossimo veramente in grado di anticipare, che la stagione spesso non ci aiuta perché fa un po' di bizze, però anche se fossimo in grado di anticipare un po' questo, molti sintomi della stanchezza da primavera sarebbero un pochino vinti. Comunque, quali sono i motivi? Diciamo, adattarsi ai nuovi ritmi circadiani, quindi dobbiamo anticipare. Sappiamo bene che il cambio d'orario in questo non aiuta assolutamente, però andando a letto un po' prima, anche se non ci viene tanta sonno, perché sicuramente ci alzeremo prima la mattina, quindi questo, andiamo in deficit di sonno, quindi dobbiamo sforzarsi ad andare a letto un pochino prima, non avere lo stesso latenza nell'andare a letto che abbiamo durante i mesi invernali, e spezzare subito le cattive abitudini alimentari, quindi cambiare abbastanza in modo sensibile il modo in cui ci siamo alimentati fino a 20 giorni fa, che dove c'erano delle temperature e molta meno luce, delle temperature molto più fredde, e poi aumentare tutti i cicli vitali, cioè noi dobbiamo andare di pari passo con le esigenze del nostro fisico, quindi dobbiamo iniziare a muoverci di più, perché se siamo statici e l'astenia, cioè la stanchezza, spesso ci guida a muoverci di meno, non facciamo altro che andare incontro invece a una maggiore astenia, quindi combattere la stanchezza muovendoci di più. L'altro aspetto è appunto vestirci anche in modo diverso. Obiettivamente il nostro corpo ha bisogno di aria, di prendere raggi di sole per interagire, per produrre nuovi ormoni, e quindi obiettivamente non dobbiamo anche proprio cambiare il nostro modo, alleggerirsi e quindi anche di conseguenza idratarci di più, perché altrimenti rischiamo di essere in controtempo con ciò che avviene nel mondo esterno a noi. Qualcosa si toglie e qualcosa, direi molto, dottor Gualerzi, si aggiunge. E dato che siamo alla bufala in tavola, parliamo di quello che possiamo aggiungere alla nostra dieta, al nostro stile alimentare. La scelta cade su quei prodotti che da soli o magari in combinazione con altri sono capaci di nutrirci, curarci, ma anche appagarci, soddisfarci, conquistarci, insomma farci venire voglia di mangiare meglio per stare bene. Dottor Gualerzi, questa è un po' la filosofia della bufala in tavola, ma non solo, perché ormai anche tutto l'approccio alla nutrizione va in questa direzione: non penalizzare, ma informare per conoscere, aggiungere e apprezzare. Assolutamente sì, perché noi sappiamo che la sfida è una, diciamola in termini più bellicosi, una guerra, non è una battaglia, quindi nell'ottica di raggiungere un obiettivo a lungo termine dobbiamo anche mediare quelli che sono i nostri desideri, le cose che ci piacciono con le cose che fanno bene. Molto spesso, a differenza di quello che ci hanno fatto credere, le due cose sono sovrapponibili, quindi le cose che fanno bene sono anche buone. L'importante, come diciamo sempre, è la consapevolezza. Spesso non siamo consapevoli e delle volte basta un pizzico più di consapevolezza e anche di cultura, per questo anche queste trasmissioni sono importanti, per fare la scelta giusta al momento giusto, e magari invece facciamo la scelta giusta al momento sbagliato e vanifichiamo il nostro sforzo. Allora, noi abbiamo chiesto i rinforzi e in linea con noi abbiamo il piacere di avere Milena Simeoni, naturopata, direttrice didattica della Lumen, Istituto di Medicina Naturale. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Una new entry della bufala in tavola. Dottoressa Simeoni, ad ogni stagione, lo anticipava il dottor Gualerzi, che lei conosce bene, la natura ci mette a disposizione dei prodotti che sembrano proprio fatti apposta per rispondere ai nostri bisogni, e la primavera, diciamo la verità, è particolarmente generosa, forse perché in questo periodo dell'anno molti di noi e molti nodi vengono al pettine, abbiamo bisogno di depurarci ma anche di ricaricarci. Ci sono sostanze proprio contenute in alcuni alimenti che possono venirci in aiuto. Ce ne racconta, ce ne dice qualcuno? Sicuramente, a me piace moltissimo. Adesso mentre vi parlo sto passeggiando a piedi nudi su un prato, e la primavera si osserva proprio prima di tutto nei colori, nelle forme, in questa ecletticità di proposte che possono arrivare in tavola serenamente. La prima cosa è il verde, si vede tantissimo, ci circonda con questa brillante, come si può dire, stimolo, e la sua forma che tende costantemente ad allungarsi verso l'alto. Se pensiamo a queste foglie verdi, sono proprio lo spunto che possiamo introdurre dentro di noi per germogliare insieme alla natura, per uscire da quel letargo dell'inverno e trovare una nuova vita. Non a caso le foglie verdi sono state ben studiate e si sa perfettamente, per esempio, che da caso consolidano, proteggono proprio la struttura scheletrica, che molto ha a che fare con l'inverno, che in qualche modo ha sofferto e ha patito di questo accumulo tossinico che diceva il dottor Gualerzi. E allora provare a mangiare a tutti i pasti una verdura verde, a cercare di... Mi viene in mente nella nostra cultura le cime di rapa con le orecchiette con le cime di rapa, che sono una bontà incredibile, oppure il porro che si potrebbe mangiare anche con gli spinaci, adesso il porro è ancora forse meno indicato, gli spinaci che sono proprio tipicamente della primavera, mangiarli nella pasta e introdurli costantemente. Quello che sembrerebbe come la corte di Framingham dice, che ha un buon risultato sulla struttura scheletrica, è proprio la vitamina K, che è molto contenuta nelle foglie verdi. Allora, quindi aggiungiamo alle foglie, quando uno dice mangia la foglia, ma noi, dottoressa Simeoni, possiamo anche mangiarci dei fiori. Oh sì, i fiori edibili sono una cosa incredibile. Appunto, in questo campo c'è per esempio i fiori di Tarassaco, che sono sicuramente di sapore tendenzialmente amaro. Sono quelli gialli, vero? Quelli gialli, denti di leone, sì, sono quelli gialli. Poi ci sono qui delle margheritine, che sono quelle di campo, che hanno un sapore differente, ma entrambe possono essere utilizzati. Sono fiori edibili come l'angelica, e ce ne sono veramente molte, la rosa, la viola, ne conosciamo tante. E questo non solo porta, mi viene in mente anche il polline, semplicemente, che noi poi andiamo cercando come come rimedio per la stanchezza, ma porta colore, che non è da sottovalutare, perché in realtà una delle informazioni più grandi che ci dà la primavera è il colore, e che è la capacità di sollevarsi, di sollevarsi anche nella stanchezza, di sollevarsi nella caduta dell'energia, di rifiorire un pochino. Dottor Gualerzi, ma lei che cosa vuole aggiungere alla tavola della nostra primavera? Perché diciamo che abbiamo sicuramente sì, le foglie verdi, la natura mette a disposizione una gamma di prodotti, frutta e verdura, che hanno proprio la capacità di idratarci e quindi di, anche di rimineralizzarci, perché sono molto ricche di vitamine, sali minerali. Ma il dottor Gualerzi che cosa aggiunge e quando? Perché io so che lei porta spesso l'attenzione sul momento giusto in cui assumere il cibo. Sì, diciamo che oltre a guardare la stagionalità, quindi la natura ci esprime la sua cronobiologia con i regali che ci fa in ogni stagione, anche noi dobbiamo, diciamo, avere la nostra. E quindi, ad esempio, ecco che ad esempio il tarassaco o comunque tutti i cibi che depurano, sarebbe meglio consumarli nelle prime ore della giornata, quindi fino verso le 14, in modo tale che anche prima, volendo, perché è lì che si concentrano la massima azione, diciamo, di depurazione, anche per fornire alla sera, durante la notte, no, i nutrienti che poi sono utili quando il nostro metabolismo va diciamo un po' in automatico a fare il suo lavoro detossificante. Volevo aggiungere anche un'altra cosa secondo me interessante, che se andassimo a vedere la tabella di quello che avviene nella natura da aprile a maggio, ci rendiamo conto di una cosa. Infatti la dottoressa Simeone non ha citato tutti i frutti, no? Perché questa è una stagione relativamente povera di frutta, originariamente, almeno stagionalmente. Sì. E proprio perché o quelli che ci sono veramente poco calorici, perché in questo momento, no, per quanto la frutta faccia bene, abbiamo più bisogno di depurazione. La vera depurazione deriva appunto dalle foglie verdi, dalla verdura e poco dalla frutta, che invece ci idraterà più e ci darà un pochino più di calorie leggere nei mesi successivi. E quindi, se andiamo a vedere, c'è sempre una spiegazione. Mi sembra che sia veramente fantastico come la natura, in modo silenzioso, anche se molto, diciamo, importante, ci suggerisce quello che dobbiamo fare. Quindi l'indicazione è, in questo passaggio, privilegiare la verdura alla frutta, anche perché noi tante volte abbiamo sentito dire, ripetiamo, le 5 porzioni di frutta e verdura al giorno. Più verdura che frutta, quindi 3 di verdura e 2 di frutta, piuttosto che il contrario. È corretto? Ho capito bene? Assolutamente sì. E nella prima parte della giornata? Sì. Nella seconda che cosa ci fate mangiare per depurarci? Ma anche per sostenerci, perché non è che poi ci depuriamo troppo. No, però diciamo che nella seconda parte della giornata abbiamo bisogno un pochino più di sostanza di ricostruzione, quindi nella seconda parte, come abbiamo detto più volte, magari qualche sostanza più diciamo strutturale, come le proteine nobili dei legumi. In questo momento, ad esempio, le fave sono molto, diciamo, no, di moda, perché diciamo di moda perché è la stagione delle fave. Quindi proteine vegetali, cereali integrali, in modo tale che durante la notte, anche pesce azzurro, perché no, durante la notte abbiamo i mattoncini ideali per rigenerare magari quei muscoli che abbiamo utilizzato durante la giornata facendo una bella camminata, come sta facendo in questo bene, momento. Bene, fortuna, piedi nudi nel parco. Infatti. Milena Simeoni resta con noi come il dottor Gualerzi. Noi ci fermiamo per una pausa, ma attenzione, un altro ingrediente fondamentale per questo periodo in generale, ma per sempre, ma in modo particolare per la disintossicazione, l'acqua, e la bella stagione credo possa anche diventare il momento propizio per imparare a idratarci correttamente. Perché noi beviamo, ma forse non beviamo nelle quantità, nelle modalità corrette. Anche l'acqua è un alimento e ne parliamo tra poco. La bufala in tavola. Alla bufala in tavola si mangia, ma anche si beve. Allora, per adesso ci beviamo l'acqua, che è un alimento, dottor Gualerzi, che può aiutarci assolutamente anche a depurarci. Diciamo che l'ingrediente fondamentale per la disintossicazione è proprio quello più presente nel nostro corpo, perché siamo fatti per il 65% di acqua, è proprio l'acqua. Ne abbiamo bisogno di una discreta quantità, ma spesso, ahimè, interagiamo con l'acqua in modo sbagliato e questo determina sempre per non parlare solo delle quantità, ma qualitativamente, non solo nel senso dell'acqua, ma anche cronobiologicamente, abbiamo un rapporto non super corretto nei confronti dell'acqua. Dottor Gualerzi, quali sono gli errori che commettiamo più frequentemente? Sì, diciamo che vorrei subito dire che un conto è bere e un conto è idratarsi, quindi non sempre quando beviamo ci stiamo idratando, perché ad esempio quando si beve durante il pasto sappiamo bene che quest'acqua va a diluire ad esempio i succhi gastrici, ma anche a fare in modo che il bollo alimentare sia più liquido e quindi casomai avrà un'azione lassativa maggiore, ma sarà meno assorbita dalle nostre cellule. Questo è un grande primo errore, quindi cronobiologicamente noi assorbiamo molto l'acqua nelle prime ore della mattina al risveglio, soprattutto con acqua a temperatura ambiente, perché avendo l'organismo vuoto ed è svuotato da tutta la digestione avvenuta durante la notte, è lì che assorbiamo molto bene l'acqua, tenendo conto di un aspetto che molto spesso si ignora, che il metabolismo avviene solo e soltanto in presenza di acqua. Tutti i processi metabolici del nostro organismo sono fatti con l'acqua, quindi senza la famosa H2O noi non riusciamo a fare nessuna forma metabolica, quindi proprio al risveglio che ci dobbiamo idratare. L'altro consiglio appunto è quello di bere lontano dai pasti, quindi quello che noi consigliamo normalmente è due bicchieri a risveglio, a metà mattina, a metà pomeriggio e prima di andare a letto. Quindi dissociare dal bere, l'idratarsi, o meglio, con il bere. Quindi ci si idrata lontano dai pasti. E poi diciamo che l'altro aspetto è che spesso utilizziamo acque, no, che hanno delle proprietà magari diuretiche, no, come vanno di moda adesso, depauperate di tutti i sali, ma noi sappiamo che se vogliamo inglobare l'acqua nelle cellule abbiamo bisogno che questa contenga almeno un po' di sali minerali, quindi da una parte giusto, ve lo dico anche da cardiologo, prendere delle acque più leggere, dall'altra quando sono troppo leggere hanno semplicemente un'azione, è logico che ci fanno fare la pipì, ma noi abbiamo bisogno che questa si ferma anche dentro le cellule, quindi c'è bisogno che all'interno ci siano un po' di sali minerali. Quindi che cosa possiamo aspettarci allora, dottor Gualerzi, da questa idratazione direi corretta, e quali invece sono le bufale che circolano sull'acqua? Beh, ci dobbiamo aspettare innanzitutto che di essere più energici, quindi paradossalmente l'alimento che più di tutti ha meno calorie, l'acqua, è l'alimento che ci può regalare più energia, quindi molto spesso l'energia deriva proprio da una corretta idratazione, quindi ci dobbiamo aspettare che se beviamo in maniera corretta siamo più idratati, ci passa il mal di testa e anche quei dolori muscolari famosi da cardiologo, fisi intercostali, che molto spesso sono legate alla disidratazione. La bufala è che basta bere e bere il più possibile per avere un corretto funzionamento. Io molto spesso incontro pazienti che dicono: io bevo anche 4-5 litri d'acqua, in realtà non abbiamo bisogno di eccedere, perché non è che più beve, più uno beve più è sano, ma in realtà, come abbiamo appena detto, va bevuto il giusto, circa 2 litri, 2 litri e mezzo al giorno, ma compreso quello degli alimenti, no, per mantenere l'omeostasi e non eccedere niente di più. Quindi quando abbiamo bevuto fuori dai pasti più o meno il nostro litro qualcosa di acqua, abbiamo già un'idratazione più che sufficiente, perché la restante quota la prenderemo ad esempio dal cibo, quando mangiamo cibi naturali, vegetali, che contengono già tantissima acqua. Dottoressa Simeoni, ma un'alternativa all'acqua, ad esempio, possono essere infusi di frutto e di verdura? Ci sono centrifugati, adesso vanno anche molto di moda, sì, il che allora non significa che non dobbiamo bere, non sono alternative che vanno a sostituire l'acqua, però è un modo anche piacevole di idratarci. Certo, io direi che il modo piacevole, come diceva lei, di idratarsi potrebbe essere una bevanda che è naturalmente dolce, quindi che non ha un'integrazione di zucchero per evitare... E se adesso lo zucchero non ce lo fate usare da nessuna parte, mannaggia! Nei liquidi è un grande problema, perché chiaramente aumenta la glicemia e quindi poi la stanchezza aumenta di conseguenza, perché poi il tono scende. Quindi noi possiamo cercare di creare, sempre stando sul tema del colore, cercare di nutrire colore e sapore in modo diverso, quindi potremmo pensare a fare, non so, una bellissima bevanda arancione, io direi con un estratto piuttosto che con una centrifuga, in modo che non sia stata la frutta e la verdura surriscaldata e quindi depauperata di materiale chiaramente qua siamo termorabile. Raffinatissimi, proprio per non vogliamo neanche riscaldarla un po', per avere tutto sarebbe meglio. E quindi Direi un arancione, che potrebbe essere carota, arancia e un pizzichino di zenzero, perché a me un po' di piccante piace, mi risveglia, mi aiuta a tenere la giornata, a rimanere nella giornata. È una delle star, tra l'altro lo zenzero è stato una delle star dell'anno scorso, tutti hanno apprezzato, sì, e parlato e consumato lo zenzero, devo dire anche molto lo zenzero candito, anche se voi i medici, i naturopati naturalmente consigliano il rizoma fresco, ma è, esatto, anche buono quello candito. Ma chiudo la parentesi, sicuramente una grattatina di zenzero da quel pizzichino, sì, che ci piace. Certo, poi proprio il concetto direi che è sempre comunque la variabilità, cioè rimanere sull'idea che i vegetali fanno bene e fanno ancora più bene se variano, e quindi se non solo se c'è la stagionalità, ma se all'interno di questa stagionalità noi riusciamo ad avere un susseguirsi di informazioni diverse, anche non so, nelle insalate non mangio solo la lattuga, mangio la rucola, mangio l'endivia, ne mangio tutte quelle che si sono proposte. Tra l'altro poi... questa indicazione, dottoressa Simeoni, non è un'indicazione così che diamo noi perché non è ci piace, che diamo ma ci sono studi, grandi studi che sono, bravissimo, arrivate a dare questa raccomandazione. Sì. Esatto, uno di questi è lo studio Epic, che è uno studio veramente molto grande, che si è sviluppato in tutta l'Europa, e proprio il concetto di variabilità era stato molto sottovalutato. Direi che oltre quindi alle 5 porzioni giornaliere, il fatto di variare, ed è chiaro che la natura ci insegna e ci aiuta molto in questo concetto di variabilità. Purtroppo noi dobbiamo riscoprire molte cose, aiutare i bambini anche a mangiare quello che normalmente considerano non buono, e si possono fare tanti giochini. E poi anche a riscoprire, dottoressa Simeoni, anche a riscoprire dei, adesso il dottor Gualerzi ci ha detto di mangiare la verdura, io naturalmente parlo subito di frutta, sì, ma di frutti che sono molto ricchi e che non hanno nulla che invidiare a frutte che arrivano da lontano e di cui ci magnificano le virtù nutrizionali, ad esempio dei frutti di casa nostra che sono quasi pronti. Sono d'accordo. Sì, i gelsi sono veramente uno spettacolo, sono un super alimento, sono dolci e poi i bambini si divertono a prenderli e veramente sono ricchissimi di antiossidanti, non hanno, come diceva lei, nulla da invidiare ad altro. E oltretutto io nel mio giardino ho questa cosa meravigliosa, ho fatto nascere spontaneamente quello che già c'era, senza seminare. Abbiamo dei gelsi che sono nati, chissà quel seme lì da quanto attendeva di germogliare, di fare questa pianta che è di una forza incredibile. Sono piante anche generosa, molto belle. Io ne ho viste anche una al Parco Ravizza di gelsi, non vorrei sbagliare, ma secondo me è una pianta di gelso, e magari poi se riesco ve la fotografo e ve la posto. Poi se ho sbagliato, ragazzi, pazienza, vi fotograferò un'altra pianta, ma è una foto fatta con il cuore. Dottoressa, ma noi verremo a trovarla nel suo giardino con, e bene, cammineremo col dottor Gualerzi a piedi nudi nel parco. Grazie alla dottoressa benissimo. Simeoni, buona giornata. Buona giornata a tutti voi e grazie. Dottor Gualerzi, allora io adesso direi che dal giardino di Milena Simeoni io la porterei nello spazio, viene? Io vengo molto volentieri. Si fida e si affida? Allora venite con me. Mi piace presentare così il mio amico Stefano Polato, io lo chiamo il mio cuoco spaziale. Ciao Stefano! Ciao, ciao Nicoletta! Non solo perché è un cuoco bravissimo, con cui abbiamo lavorato anche in un progetto molto bello che ci ha dato grande soddisfazione, Mangia con me, ma anche perché lui si occupa proprio dell'alimentazione degli astronauti, insomma prepara cibi destinati alle missioni spaziali. Allora, esatto, adesso quello che noi oggi ti chiediamo, insieme a Massimo Gualerzi, è di darci un po' delle indicazioni, perché abbiamo capito che la natura ci mette a disposizione tutto lo corrente per ripigliarci da un inverno che magari è stato un po' faticoso, però noi cerchiamo di portarli a tavola e ancora ricchi di energia, di sostanze rigeneranti tutti questi prodotti, quindi non ammazziamoli durante la cottura, e quindi questa è una missione abbastanza difficile perché tu devi trasferirci in pochi minuti delle indicazioni in modo che noi diventiamo un po' tutti Stefano Polato, e quindi questo è un po' il tema del nostro appuntamento fisso alla bufala in tavola, che è Senti come mangio. Adesso senti come preparo, senti come cucino, senti come utilizzo attrezzi e come cuocio gli alimenti per tenerli belli vivi, ricchi. Sì. Allora Stefano, io... dottor Gualerzi, impari anche lei, Grazie Nicoletta, io sono molto legato al concetto di cibo vivo, cioè degli alimenti che comunichino in modo positivo con il nostro corpo, no? E per arrivare a questo bisogna fare attenzione ad un po' di cosette in cucina. In principal modo la cosa che più degrada gli alimenti, adesso parlando di vegetali in questo periodo, insomma ne vediamo e ne troviamo di tutti i colori e stanno arrivando, e primizie e quant'altro, dobbiamo trattarli in modo delicato per non degradarli, perché la possibilità che ha il cuoco in cucina o qualsiasi persona in cucina è quella non solo di degradare il cibo, ma anche di produrre sostanze nocive sopra il cibo. Quindi quando si parla di sana e corretta alimentazione non si deve solo pensare alla combinazione alimentare, si deve anche pensare ai metodi di lavorazione che ci sono dietro al cibo, perché io posso acquistare un alimento in modo attento e coscienzioso, però se poi lo cucino in malo modo purtroppo non ho combinato nulla. E parlando del mondo vegetale, diciamo che il non plus ultra risulta essere ovviamente il consumo a crudo, però nel momento in cui andiamo ai fornelli, e qui voglio specificare una cosa che non molte persone conoscono, la temperatura a cui lavora il fornello di casa nostra, il fornello a gas tipico del 90% delle case, va dai 3 ai 600 gradi. E se pensiamo solo al fatto che la vitamina C, ad esempio, contenuta nei cari peperoni, se ne va a 41 gradi, immaginiamoci se utilizziamo uno strumento sbagliato, se utilizziamo un fuoco troppo alto, degradiamo tutto, ovviamente rimaniamo solo con carboidrati, per carità un po' di fibra, ma che non fa male, però ci perdiamo per strada tutti i fitonutrienti e i micronutrienti, che sono quelli che ci regolano, diciamo, l'assorbimento di tutto il resto che mangiamo. Allora, quindi... adesso però Stefano, noi ci dobbiamo fermare un attimo, perché diamo la linea alle informazioni sul traffico, ma noi restiamo assolutamente in cucina. Con noi c'è anche il dottor Massimo Gualerzi, perché già abbiamo capito dalle indicazioni che ci dà Stefano Polato che anche la temperatura con cui cuociamo i nostri alimenti, i prodotti, può fare la differenza. Restate con me, anzi restate con noi, accomodatevi, insomma, a tra poco. La bufala in tavola. Allora, trattiamo i prodotti che portiamo in tavola quando ancora sono in cucina con gentilezza, con Stefano Polato. Stefano, se ci sente Crozza, ti fa un personaggio subito come germi di soia. E quindi parliamo bene alle nostre verdurine. Ho avuto Salvini proprio per un video e mi sono divertita molto con lui. Allora, ci dai due dritte, quindi. Attenzione alle cotture troppo vivaci. Questo sì. Possiamo dire? Attenzione alle cotture troppo vivaci, e in particolar modo cotture spinte, come può essere quella al forno. Per quanto riguarda i vegetali a 180 gradi siamo troppo alti. Il non plus ultra per le verdure, per alcuni tipi di verdura, è la cottura a vapore. A molte persone questo tipo di cottura sembra una cottura tra virgolette per malati, no? Cioè, sembra che sia il pasto dietetico della giornata. In realtà non è proprio così, perché se ci immaginiamo degli asparagi cotti a vapore anziché bolliti, è tutta un'altra cosa. Preserviamo soprattutto i sali minerali che avremo annacquato dentro l'acqua di bollitura. Quei sali minerali sono il gusto del cibo. Quindi abbiamo fatto due cose: abbiamo preservato valori nutrizionali, abbiamo preservato gusto, e ovviamente avendo gusto non serve abbondare con il sale, perché ovviamente un asparago bollito per mezz'ora devo metterci qualcosa perché abbia un senso e abbia un gusto appagante, no? Quindi ecco che con poche attenzioni riusciamo a perfezionare non solo l'ottimizzazione e l'assimilazione di tutti i nutrienti di quell'alimento, ma anche dal punto di vista del gusto riusciamo ad avvicinarci un po' di più ai gusti della natura, senza essere offuscati e assuefatti da quei due ingredienti che purtroppo io chiamo inquinanti, che sono il sale da una parte e lo zucchero dall'altra. Oh mamma mia, anche Stefano Polato ormai, anche nello spazio, zucchero e sale non possono più entrare. Quindi cotture molto veloci, ho capito bene, sì, sì. E poi non con un fuoco molto vivace. Sì, diciamo che le variabili che tendono a degradare il cibo sono tempo di esposizione al calore, quindi per quanto tempo io lascio in esposizione al calore il mio prodotto, sì, e temperatura di cottura. Sì. Questi sono i due parametri a cui devo fare attenzione. Piuttosto faccio delle pezzature più piccole, sì, e cuocio a temperature più basse. Bravo. In modo tale che al cuore il prodotto sia cotto in poco tempo, sì, ma che sia cotto a puntino. Dottor Gualerzi, però ci sono dei prodotti, dei vegetali che in cottura migliorano, un po' come le persone. Ci sono delle persone che invecchiando migliorano, e anche i prodotti. Quali ad esempio? Che obiettivamente due potenti antiossidanti e sostanze che sono state dimostrate avere un impatto molto importante sulla salute, come il licopene e i carotenoidi comunque contenuti nei pomodori, ad esempio nelle carote, potrebbero avere, anzi hanno sicuramente, aumentano la propria biodisponibilità quando ad esempio i pomodori vengono cotti, e quindi ad esempio la passata di pomodoro è sempre con l'aggiunto di un pochino d'olio, che sappiamo che ne aumenta la biodisponibilità. E questo avviene, ed è vero, sia per i pomodori che per le carote. Quindi in realtà una leggera cottura, soprattutto delle carote, e magari anche invece la cottura trasformando in passata di pomodoro, quindi il classico piatto di spaghetti, pomodoro e olio all'italiana, diciamo che può creare una ottima biodisponibilità di questi elementi che per tutti noi medici sono fondamentali per la preservazione appunto della salute. Ma Stefano, anche mi sembra la padella faccia la differenza, no? Quindi dobbiamo avere delle padelle che siano adeguate per risparmiare un po', per cuocere senza aggredire, per distribuire bene il calore. Sì, ma per arrivare a quello che dici tu è necessario, è quasi obbligatorio, insomma, avere delle pentole o delle padelle o delle casseruole con un minimo di fondo, almeno mezzo centimetro di fondo, in modo tale da creare una barriera ulteriore fra fonte di calore, che è il fuoco, e alimento che ho sopra. Ti faccio l'esempio dell'olio extravergine di oliva. Abbiamo detto prima che il fornello di casa nostra, male che vada, lavora a 300 gradi. Il punto di fumo dell'olio extravergine di oliva è 180-190. Se noi non abbiamo una padella o una pentola abbastanza spessa sul fondo, il punto di fumo lo superiamo dopo subito 10 secondi. Quindi già in partenza, magari facendo un soffritto per il nostro bel risotto, iniziamo a produrre sostanze nocive e a degradare il grasso. A questo punto stiamo parlando di olio extravergine di oliva, un farmaco a tutti gli effetti, andiamo a degradarlo e a produrre sostanze nocive. Quindi vedi quanto è semplice. Invece avendo una pentola, una padella con un minimo di fondo, riusciamo ad evitare, insomma, l'innalzamento repentino della temperatura e tenerla più a bada. Poi certo, un'altra cosa che mi piace sempre sottolineare è anche l'utilizzo delle pentole antiaderenti o delle padelle antiaderenti o finto granito, che insomma l'impasto fra virgolette è sempre quello che viene steso, no? Quindi un antiaderente a base di Teflon che qualche anno fa era imputato come possibile cancerogeno, ed effettivamente era così, perché veniva utilizzato un prodotto per creare queste padelle, per stendere l'amalgama nera, che si chiama PFOA, è l'acronimo, è una parola lunghissima, ma oggi si trovano le padelle prodotte in Europa, dove è stato bandito questo prodotto. Bene, vedi come siamo avanti, bravi. Il marchio a cui fare attenzione è PFOA Free, ed è un marchietto verde con una fogliolina. Ecco, se allora cerchiamo, se c'è la foglia, ecco, quell'indicazione, non la compriamo. Ok, a proposito, ritorniamo a mangiare le foglie, la foglia. Grazie a Stefano Polato. Grazie a te, grazie a voi. Dottor Gualerzi, ho ancora una curiosità, perché la primavera è la stagione in cui alcune persone, decidono di abbandonare il divano e di mettersi un pochino a correre, insomma, di muoversi un po', di fare un po' di attività fisica. C'è chi la fa per dimagrire, c'è chi la fa magari anche per tonificare, magari le persone che non hanno bisogno proprio di perdere peso, ma di rendere un pochino più tonici i muscoli. Allora, il primo problema che molte persone lamentano quando iniziano a muoversi è che aumenta la fame. che cosa succede? È normale, ma dottor Gualerzi, c'è chi dice mi muovo, mi viene fame, mangio di più e ingrasso, in più faccio fatica. Beh, anche qui dipende sempre dalla cronobiologia, e secondo me quando facendo più attività fisica abbiamo una fame spropositata in maggiorazione, diciamo, quindi più fame, forse stiamo sbagliando qualcosa, perché se da una parte è giusto che più ci muoviamo più dobbiamo consumare delle calorie, è altrettanto vero che se ci muoviamo un pochino abbiamo una fame molto maggiore, significa che stiamo sbagliando appunto qualcosa. Ad esempio, diciamo che per perdere peso e quindi per avere una maggiore azione sul grasso, ormai sappiamo che l'allenamento nelle prime ore della mattina a digiuno è a media intensità, medio anche bassa intensità, ha un'azione, diciamo, molto importante, perché veniamo da una fase di deflezione durante la notte, dove possiamo dividere la nostra vita banalmente in fasi in cui ci ricarichiamo i pranzi tramite i pranzi, poi la fase appunto di digiuno. Quando ci alleniamo in fase di digiuno, diciamo che poi dobbiamo per forza andare a tingere a delle riserve energetiche. Ecco, in questo caso, finito l'allenamento, potremmo sì aver fame, ma andiamo incontro subito al pranzo principale della nostra giornata, che dovrebbe essere la colazione. Ecco che in quel momento siamo in grado di andare a sedare anche la nostra fame. E d'altra parte ci possiamo anche aiutare con qualche integratore, ad esempio come la rhodiola rosea o la maca, che hanno un'azione sia da un certo punto di vista appunto lipolitica, no? Quindi aumentano la riduzione del grasso, soprattutto quello viscerale, ma essendo anche piante adattogene ci fanno sentire meno la fame da diciamo primavera, quindi questo un po' irritazione, certo, che poi dipende anche forse da questi stimoli gastrici che abbiamo, e non è sempre fame ciò, quell'anguore che si sente a livello, diciamo, dello stomaco. E quindi questo è per quanto riguarda perdere peso e calmare la fame che può derivare da questa attività fisica. Bastano una trentina di minuti, quindi a medio-bassa intensità, quindi diciamo più o meno al 60-70% della propria intensità massima, che ognuno appunto ragionerà sulla propria, e quindi sostanzialmente fare una buona, ottima, abbondante colazione al termine. Avremo avuto un effetto lipolitico. Mentre se vogliamo tonificarci, ecco, in realtà il mio consiglio è quello, sempre per andare a non stimolare la fame, no, e anche ad avere la massima azione, diciamo che dovremmo eseguire o dei circuiti appunto di tonificazione muscolare intercalati o meno a delle brevi fasi aerobiche, quindi quelli che noi chiamiamo circuiti, che saranno dal punto di vista cronobiologico più utile eseguire nella seconda parte della giornata. Perché questo? Perché sicuramente affinché si possa ottimizzare la nostra massa muscolare abbiamo bisogno di andare incontro in quel periodo della giornata, cioè la sera, dove viene prodotto quel famoso ormone anti-age che è il GH, che sostanzialmente liberato nel nostro organismo va a tonificare, a ripopolare, ad aumentare la nostra massa muscolare, che quindi troverà la massima azione, no, nelle ore serali. E anche qui diciamo che fare attività di tonificazione muscolare, quindi fare banalmente i pesi o esercizi a corpo libero, fa venire meno fame, va incontro all'esigenza serale appunto, dove dobbiamo mangiare poco, quindi l'attività aerobica farà venire un po' più fame, ma faremo la mattina dove possiamo mangiare, l'attività di tonificazione più verso la sera. E l'integratore in questo caso più semplice e da consigliare può essere l'arginina, perché l'arginina stimola appunto il GH stesso e anche la produzione dell'ossido nitrico, e quindi avremo un duplice effetto: il GH ci farà proliferare il muscolo e l'ossido nitrico permetterà, vasodilatando le nostre vene, le nostre arterie, di far arrivare più sangue e più ossigeno ai muscoli, andando a fare un'azione appunto trofica e tonica. Dottor Gualerzi, insomma, ci sentiamo già più belli e pieni di energia, abbiamo mangiato, abbiamo bevuto, adesso abbiamo fatto anche una corsetta, ci siamo un po' allenati, ma abbiamo imparato anche il momento migliore per allenarci e quindi per prendere anche dal nostro sforzo, dall'impegno muscolare, il meglio. Dottor Gualerzi, ci sentiamo presto, la ringrazio, le auguro una buonissima giornata e un'ottima primavera. Grazie. Grazie a tutti voi, buona giornata. Io torno domani, però sempre con voi, a partire dalle 6:10, 6:15, per un buon risveglio e un buon inizio settimana. Intanto buona domenica da Nicoletta.